Yes, people, questo è Jolly Roger. Yes, people, questo è Jolly Roger. Iniziamo questa nuova puntata venerdì 13 gennaio 2023. Buon anno a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici. Un saluto a tutti quanti quelli che ci ascoltano e che ci sostengono. Questa è la nostra prima puntata del 2023. Iniziamo belli carichi, la crew non è al completo perché manca la nostra amica Alice, che salutiamo e speriamo che sia all'ascolto o che comunque ci riascolterà tramite podcast. E iniziamo questa nuova puntata, questo nuovo anno. Piano piano spoilereremo alcune notizie di quello che sarà Jolly Roger nel 2023. Intanto iniziamo la puntata partendo con quelli che sono i nostri buoni propositi. Inizia l'anno, bisogna programmarsi, riprogrammarsi, e quindi i nostri buoni propositi sono praticamente il tema della nostra puntata, della prima puntata del 2023. Iniziamo così. You are cordially invited to our Gala New Year's Eve Midnight Show. Yes, sir, we're throwing a wonderful party. Top all the good times you've ever had on New Year's Eve. Chi non ha chiuso gli occhi ha visto la stella che cadeva in fretta, così veloce che alla fine neanche un desiderio aspetta. Vorrei soltanto credere in quello che mi son promesso, ma tutti gli anni è così e butto un po' di sogni nel cesso. Felice anno vecchio, se niente è cambiato, i buoni propositi sono tutti sul piatto. La brutta fine della festa, la gente che correva a casa dimenticandosi se stessa. Vorrei soltanto credere a tutte le storie che mi racconto ancora. Decido ben poco o niente, come se fosse un gioco. servono auguri per l'anno passato. Rinuncio solo a me stesso ogni primo gennaio. Felice anno vecchio, se niente è cambiato, i buoni propositi sono tutti sul piatto. E ritorniamo in studio, questa che è la nostra prima puntata del 2023, questo è Jolly Roger, l'original Jolly Roger. Salutiamo, prima ho fatto i primi saluti, ma mi sono scordato non per poca memoria o altro, ma eravamo presi da un po' di via vai. Nel frattempo sono arrivati il nostro amico Damiano, che è reduce dalla trasferta in America e ci racconterà qualche cosetta di questo viaggio. È arrivato il nostro amico Lucone e siamo in attesa soprattutto della nostra prima ospite, che viene dal liceo Orazio, una compagna di classe di Matteo. Stiamo aspettando, intanto iniziamo piano piano a svelare questa che è la nostra prima puntata. Parlavamo di quelli che sono i nostri buoni propositi, visto che abbiamo iniziato l'anno, mi sembra anche giusto parlare di quello che sarà Jolly Roger. Allora, i nostri buoni propositi sono quelli di continuare a fare questo programma. Nel 2022 è iniziato questo, che è un laboratorio prettamente, diciamo, nato dal nulla, e abbiamo realizzato la bellezza di 35 puntate. Nonostante le restrizioni Covid, malattie, chiusure, aperture e compagnia bella, abbiamo realizzato ben 35 puntate, sempre in diretta qui dal Brancaleone. Salutiamo anche le nostre amiche del GAS, con le quali condividiamo lo spazio, anche se in questo momento siamo un po' divisi cause varie, nel senso che, visto che fa freddo, noi ci siamo rintanati nel posto più caldo, ma l'inverno dura poco, per fortuna. E detto questo, iniziamo con Luca e i suoi buoni propositi per questo 2023. Buonasera a tutti, sono Luca e buon 2023 a tutti. Ora vi racconto le mie vacanze di Natale, come le ho passate e come mi sono divertito, come non mi sono piaciute. Durante la vigilia di Natale, il 24, a sabato, siamo stati io, i miei fratelli, la ragazza di mio fratello Matteo, la piccola Lalli, che saluto tanto, nonna Antonietta, nonna Katia, nonno Massimo, zia Franci, zio Matteo, zia Fede. Che ovviamente salutiamo perché sono rigorosamente all'ascolto. Se non ci ascoltano, c'è sempre, ci riascoltano via podcast. Zio Gabri, zia Fede, zia Franci. Ho mangiato anche la frittura di pesce, io e mia cugina. Come sappiamo tutti, la frittura di pesce è troppo buona, quindi andiamo a mangiare subito. E ho ricevuto 350 euro per farmi la Xbox Serie S con 4 anni di garanzia, giochi gratuiti sul Game Pass e buon divertimento a tutti sulle console Microsoft. Detto questo, allora, dici un po', caro il nostro amico Luca, quali sono i tuoi buoni propositi di questo 2023? I miei buoni propositi sono quello di essere il più buono possibile, di non sbroccare, visto che comunque sono abbastanza una testa calda, di farmi ricrescere un po' dei capelli, tagliarmi un po' di più la barba. E ora dimmi un po' quelli che sono i tuoi buoni propositi. I miei propositi sono non dire più fregnacce. Mitico. Me l'ha detto la mia operatrice Chiara, che adesso stiamo aspettando l'amica di Matteo, Sofia. E casomai andare a Berlino intanto con l'aereo al palazzo degli M&M's, prendere un hotel, a visitare anche il muro. E soprattutto dimmi una cosa, fai buoni propositi, vuoi essere promosso o vuoi essere bocciato? vorrei essere promosso perché chi è bocciato è un gran rosicone. Perché... Vabbè, non è che un gran rosicone, che stai a dire, uno ci può avere un inciampamento dal punto di vista scolastico, senti come parliamo noi, quindi figurate quante volte ci avrebbero dovuto bocciare. Però detto questo, perché insomma, cioè, oltre a non farsi bocciare, qualche altro tuo buono proposito? Prima mi hai raccontato una cosa che abbiamo detto che sta, dobbiamo iniziare a spoilerare. Raccontaci un po' questa, che poi è una cosa anche bella e interessante. Allora, progetto con Luca Di Puzzle e Andrea. Un martedì con Andrea ho chiesto insieme a Luca Corsi di Puzzle, che sta ogni tanto anche qua al Branca, che saluto con tutto il cuore. Abbiamo chiesto di fare degli stencil e delle magliette. Scusate per lo spoiler, faremo delle magliette con il logo di Jolly Roger, con il logo del Branca Leone, con cui facciamo la radio tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Faremo queste stencil, magliette in giro per i quartieri, sceglieremo il muro adatto, chiederemo sempre il permesso e pagheremo con i miei soldi a Luca, che saluto tanto. Mi dico, questi sono i buoni propositi, sono le iniziative, quindi già spoilerato qualcosa, quello che a breve usciranno, a breve. Diamo una tempistica, diciamo a marzo, quando inizia la bella stagione che ritorna il sole come piace a noi, usciranno le magliette di Jolly Roger, che noi chiaramente in tempo proveremo a smerciare in giro per il quartiere e anche un po' per l'Italia, dai, cioè sogniamo un po' alla grande. Quindi magari più là vi informeremo di questa attività che piano piano prenderà piede il nostro amico Luca. E niente, partiamo con un altro pezzo musicale. Si parla di sole, si parla di belle stagioni, si parla soprattutto di amore, di voglia di fare. E passiamo al primo pezzo, che è un pezzo storico, che è quello di Neffa, Aspettando il sole. Spento e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido, perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato, e mo' il passato se lo tiene, piove già da un tot. La pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole. Oggi non c'è sole intorno a me. Un'impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta? Mo che sono nel ciclone, in dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura, e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole. Oggi non c'è sole intorno a me. Vada se, conto solo su di me, già so che già sai che un ciclo fa quel che sa da fare quando amore non c'è. Devo aggiustare, perché in tasca manca mone. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero. So che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male. Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale. So bene dove sono, adesso voglio stare qui, sentire il beat. Se l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi, musica colpisce al cuore. Boom shap, però non c'è dolore. Ti stendi le tue mani guaritrici su un guaglione, mentre sta aspettando il sole. E io oggi non c'è sole intorno. Torniamo in diretta. Questo era un pezzone di Neffa che ha fatto la storia dei almeno di quella che erano una volta i messaggeri della Dopa. Torniamo in diretta, abbiamo un po' risognato alla maniera nostra e prima Luca ci ha raccontato i suoi buoni propositi, nel frattempo è arrivata anche Sofia, quindi diciamo che lo studio si è riempito come, così come piace a noi. Ora è il momento tipico del nostro amico Luca, che sono i suoi consigli per gli acquisti. Offerte supermercati Idromarket, Monster a vari tipi a 50 centesimi, pecorino romano top consiglia grattugiato a 1 euro, Pringles, sour cream e onion, panacea e cipolla a 2,50 euro, dal 13 gennaio al 25 gennaio. Mitico. E allora, visto che ci stiamo, hai detto dopo devo raccontare una cosa e mo te la fammo raccontare, cioè non sappiamo cosa vuole raccontare, ma stava di prima adesso ovviamente stavamo per ritornare in diretta. Vai. Volevo raccontare del mio viaggio che farò. Il mio viaggio sarà a Berlino, in Germania, anziché andare a Rotterdam che vorrebbe andare mia madre. Andrò là per fare, diciamo, una settimanella, un weekend. Andrò a visitare il muro, andrò a visitare il palazzo degli Eminenz proprio, che puoi anche... La cosa meglio, che visto che non stavi a di solo da un'ora e un quarto. Forse ci andrò dopo il mio compleanno, verso Pasqua o prima di Pasqua, o dopo Pasqua. E farò una notte, prenderò l'aereo, prenderò dall'aeroporto Fiumicino ad arrivare fino alla Germania. Però il patto qual era che non devi dire? Tutte le fregnacce che dico. Perfetto, e noi proseguiamo col pezzo musicale scelto dal nostro amico Luca, che qual è, dicevo tu? The Honesty Maneskin. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I wrote in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone, there's just one thing. I love you so, 'cause I don't need gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight it's gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight it's gonna be the loneliest. I'm sorry, but I gotta go. You left me, it's me guilty, so I know the goal. And I just keep on thinking how you made me feel better, and all the crazy little things that we did together. In the end, it doesn't matter if tonight it's gonna be the loneliest. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me. A part of me. Ma quanto sono forti questi Maneskin e quanto piacciono questi Maneskin, scoperta piacevole questi di questo gruppo, e soprattutto romani doc e romanisti di origine protetta. Detto questo, ripasso il mic al nostro amico Luca, che è il momento delle sue battute. È un dolce italo-giapponese, il tiramisù. E qual è? E qual è la cosa più difficile nel preparare l'uovo in camicia? Vestire la gallina. Cosa fanno due pidocchi sulla testa di un uomo calvo? Ballano il liscio. Avete capito? Perché le persone pelate sono calve. Esatto, detto questo passiamo un altro pezzo musicale, poi chiaramente passiamo direttamente alla nostra amica Sofia, che fa le tante cose, si è imbarcata per venire in quel del Brancaleone per partecipare a Jolly Roger. Andiamo con la musica e poi ritorniamo direttamente qua in diretta. Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino. Sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. E reinsegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu. Ti stupirà ma no, non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due, me l'hai insegnata tu. Che ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento, un buco nero e un occhio blu. E sono poco più di un sciame tu, tra tutte queste persone, nella mia testa io gioco a tabù, perdo se dico il tuo nome. Sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu. Sbadiglio e prendo la boccetta di Aducanumab e penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima, eppure se lo sai che sono non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Troppo forte per stare in piedi. E fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Come spoilerato all'inizio, ci è venuto a trovare una compagna di classe del nostro amico Matteo, del terzo E, indirizzo linguistico dell'Orazio. Porca miseria, ci sono riuscito, è stato... pensavo che fosse più difficile, invece ci sono riuscito. Ringraziamo quindi tutta la terza E che piano piano, un po' a rotazione, parteciperanno a quello che è Jolly Roger, quindi ci sarà modo di conoscere i compagni di classe di Matteo, di raccontare le loro esperienze con sto lazialotto che poraccio, ci vuole bene, gli si vuole bene, anche se della Lazio, quindi questo era il senso. E allora, detto questo, questa settimana i ragazzi della terza E linguistico dell'Orazio hanno girato un video per Decathlon, giusto Sofia? Questo video era su lo sport inclusivo, quindi volevo fare la prima domanda, la faccio io, poi la faranno sia Matteo che Luca. Chi ha scritto quello che è stato il video? Allora, il video l'hanno scritto due compagni di classe, si chiamano Safira Vannozzi e Davide Lutri, e la sceneggiatura è stata scritta appunto da loro, il professore l'ha accettata, è stata scelta a votazione perché si erano proposte più persone in vari gruppi per appunto la sceneggiatura e ha vinto appunto il loro gruppo. Perfetto, quindi noi... prima cosa abbiamo detto di questo video, consigliamo a tutti di dargli un'occhiata. Come si chiama il video? Scusami Sofì, che questo è difficile. E il Punto Vincente. Punto Vincente, lo trovate sicuramente su YouTube. Non so se ancora si può votare, si può mettere un like. Comunque, detto questo, guardatelo, soprattutto mettete un like, perché la cosa importante della realizzazione e di quello che è questo video è il messaggio che deve passare, quindi un messaggio di inclusione e di integrazione di tutti e tutte. Detto questo, ora passiamo il primo pezzo che ha portato Sofia qui in radio. È un pezzo che purtroppo il nostro amico qua lazialotto mi canta spesso, ma non spoilerò niente, vado direttamente col play. Mm-hmm. passione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché, e se l'amore non c'è, basta canzone, sarà perché ti amo, se cade il mondo, allora ci spostiamo, se cade il mondo, sarà perché ti amo, stringimi forte e stammi più vicino, è così bello che non mi sembra vero, se il mondo è matto, che cosa c'è di strano, matto per matto, torniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Ora come io la domanda l'ho fatta alla nostra amica Sofia, e Luca voleva fare una domanda. Come è stato creato questo video del punto vince a Decathlon? Allora, la Decathlon ha fatto un contest e il nostro professore ha scelto la nostra classe perché l'ha definita adeguata per fare questo video. E appunto è stata fatta la sceneggiatura, sono state fatte le riprese con il regista e abbiamo provato le cose prima nella nostra palestra, facendo anche varie prove con i professori. Appunto anche Matteo ha partecipato a questa cosa. Il nostro attore, è Matteo. Stato anche lui l'attore, anzi il protagonista. Esatto. E niente, è stato creato il video finale. Perfetto, perfetto, che è stata molto sintetica ma soprattutto molto precisa nella risposta. Ora Matteo vuole fare una domanda alla sua compagna Sofia. Io chiede quali sono? Prodotti, allora io... Quali sono i buoni propositi di Sofia e poi quali sono i tuoi buoni propositi, visto che ci stiamo? Allora, domanda difficile, non so come risponderti. Forse passare più tempo appunto con la mia famiglia, con i miei amici, perché durante la settimana studiamo tanto, vero Matteo? Sì, ok. Lo vedo quanto studia. Matteo non studia. E non lo so. È tutta scienza infusa. Adesso questa è la risposta. Perfetto, grazie Sofia, ti abbiamo creato un po' di imbarazzo, ma a noi ci piace così. E ora Matteo, quali sono i tuoi buoni propositi? A me io faccio un piatto con i miei compagni di classe. Dove? Dove vorresti andare a fare questo viaggio? A Malaga. A Malaga. Andiamo a Napoli. io vado a Napoli anche perché bella Napoli. Vedi Napoli e poi muori, speriamo di no, però mi raccomando Ciccio, almeno il caffè te lo devi assaggiare a Napoli. E il caffè e la pizza, chiaramente. Poi altri buoni propositi? Le mie è... Fate l'ultima fetta, Dani, Andi, ah, mitico, vero. A marzo spoileriamo anche quest'altra cosa. Il 22 marzo il nostro amico Matteo compierà ben 18 anni, quindi diventa maggiorenne e tranquillamente libero di essere arrestato. Ora, qual è l'ultimo buono proposito per questo nuovo anno? Meglio nonno. Ah, perfetto, sì, giusto, visto che sabato va in quel di Nettuno dai nonni, che insomma la salute accompagna i nonni di Matteo. E allora abbiamo raccontato quelli che sono un po' buoni propositi, andiamo con un altro pezzo sempre scelto dalla nostra amica Sofia. Dire tanti auguri a te. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, ultimi 20 minuti per noi, stiamo raccontando, abbiamo raccontato quello che sarà Jolly Roger nel 2023, stiamo in compagnia della nostra amica Sofia del terzo e linguistico dell'Orazio che ci stava raccontando che purtroppo in programma avevano una gita a Malaga, poi a quanto pare questa gita da Malaga si trasferisce a Napoli, non che sia da meno, ma la motivazione è che purtroppo i ragazzi hanno occupato e di conseguenza il regolamento prevede che chi occupa tutte le attività extrascolastiche subiscano dei cambiamenti, soprattutto i viaggi di studio. Io mi dissocio da questa cosa perché ritengo che sia una cosa del tutto inutile e del tutto anche poco educativa, anzi sostengo e supporto le occupazioni delle scuole perché se ci sono delle giuste motivazioni è giusto che i ragazzi facciano sentire la propria voce e l'unica maniera è quella di occupare o di scioperare, quindi massimo rispetto a tutti i ragazzi dell'Orazio che occupano e che gestiscono in maniera libera la loro voglia di crescere. Detto questo, torniamo in diretta, parliamo dei nostri soliti pronostici sportivi e anche qui la nostra raccomandazione è quella di giocare, magari se sa qualcuno vince, noi vi aspettiamo sempre qui tutti i venerdì al Brancaleone dalle 17 alle 18, magari una biretta, un pacchetto di patatine, un'aranciata, insomma sono ben accette. Detto questo, andiamo con i pronostici. Na Juve tutti meglio vite Napoli. Allora, fra Juventus e Napoli dice vincere Napoli, vabbè, perché mo va a Napoli. Sì. Poi, Cremonese, molta meglio vite Cremonese. Mitico, dopo le battute dell'amico Berlusca, che non possiamo chiaramente ripetere e riportare qua. Poi, le Teminan meglio vite Lecce. Perfetto, poi? I Teminan vite Verona. Ottimo, allora noi ci raccomandiamo di vincere, di giocare con parsimonia chiaramente e passiamo un altro pezzo che diciamo accompagna quella che è stata la mia settimana lavorativa, non so per quale motivo ma da un paio di giorni che dove vado sento questa canzone, quindi ho detto raga sai che c'è, anche oggi toccherà sentirla e vado di play. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. Per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, nel frattempo è arrivato anche il nostro amico Otello a salutarci e a partecipare agli ultimi minuti della nostra diretta. Nel frattempo volevo chiamare un attimino il nostro amico Damiano per farci raccontare delle sue vacanze natalizie. Dovete sapere che il ragazzo è stato a trovare gli zii in America e dall'America è andato in Giamaica. Io ho 44 anni e in Giamaica l'ho vista solo in cartina o in qualche filmato, quindi volevo farmi raccontare dal nostro amico Damiano la sua esperienza, cioè il suo racconto di questi viaggi in maniera sintetica. Damiano, famo in maniera, poi abbiamo tutto l'anno per raccontare la Giamaica. E buonasera a tutti, ecco, volevo raccontare a voi, ma soprattutto a Pietro, di non aver, visto che lui ha appena detto di non aver visto la Giamaica, di innanzitutto la Giamaica la considero, come dire, un paese tranquillo, essendo una piccola isola, e che dire, ecco, mi è molto piaciuta, soprattutto perché hanno delle spiagge che sono proprio fantastiche, mi hanno lasciato veramente mozzafiato. Ma soprattutto la cosa che mi è piaciuta in assoluto di tutti è la casa di Bob Marley, visto che è sempre stato il mio sogno visitarla, visto che un pochino mi piace la cultura rastafariana, ma non sono proprio un dedito, come dire, praticante. E parlando dell'America, sono stato... Purtroppo i potenti mezzi di Pirate Radio non ci consentono di avere webcam, ma... C'ha una maglia, regà, cioè che è la fine del mondo. Ora raccontaci tu questa maglietta. Sta maglietta che c'ho addosso, che mi dispiace che nessuno la può vedere, tranne Pietro qui davanti a me. Vabbè, pure e gli che... altri, che stavo... e soprattutto gli altri. Tet a tet. Vabbè, anche gli altri. E che questa maglietta è The Disney World, che soprattutto è un parco davvero bellissimo. Questa maglietta ho pagato una cifra dei dollari. E... che poi la cosa che pensavo, credevo credevo fosse made in America, invece è made in China, che poi la cosa strana è che cinesi e americani non vanno per niente d'accordo, è vero, Pie? Che vanno d'accordo? No, per niente, cioè, allora, com'è cambiata la diretta, è arrivato Damiano tutto bello, profumato, lindo e pitto, con la sua voce impostata, parlando dell'America. Sì, è vero, confermo quello che hai appena detto. E, come dire, sono veramente contento, ringrazio soprattutto mio zio Gianmarco, che lo saluto anche, di avermi fatto andare a Disney World, visto che è sempre stato il mio sogno visitare questi parchi, visto che sono un fan sfegatato della Disney, ecco, anche se ho 18 anni, però chi se ne frega, però ognuno di noi, anche se uno è grande, ci avrà sempre l'infanzia in capoccia. Mi dico, cioè, detta sta cosa, mi guarda e ride, cioè, ho detto tutto, raga. Però va bene così, dai, intanto parliamo un altro pezzo e poi ritorniamo sempre qui in diretta. Io canterò alla radio e ti darò il rimedio per poterti accorgere di pensarmi un po'. Radio e ti darò il rimedio per poter so che mi lasci un poco del tuo battito in fondo a questo ritmo. Voglio una musica dinamica, perché la vita non è statica. Voglio per me un suono che mi racconti come sei speciale. In quale musica ti riconosci, te lo chiedi mai? Quale suono fa da sottofondo ai giorni tuoi? Quel che ascolti è quello che sei, non scordartelo mai. Io ad esempio ho giurato a me stesso che io canterò alla radio e ti darò il rimedio per poterti accorgere di pensarmi un po'. Io canterò alla radio e ti darò il rimedio per poterti accorgere di pensarmi un po'. Io canterò alla radio e ti darò il rimedio. Torniamo in diretta, ultimi minuti per noi. Nel frattempo salutiamo la professoressa Giovanna Mirra del Liceo Orazio. La ringrazio, anche se la conosco e non la conosco direttamente. Grazie a lei per averci consentito questa piccola collaborazione fra l'Orazio e Jolly Roger. Niente, ora ripasso il mic alla nostra amica Sofia. Gli voglio fare una semplice domanda, a parte l'imbarazzo e la caciara che c'è qui nello studio. Volevamo sapere un pensiero di quello che è Jolly Roger. Secondo te è una cosa, cioè, come ti sei trovata in questi pochi minuti che ci sei stata, che sei stata qui con noi? Allora, parto ringraziando Matteo che ha esteso l'invito a tutta la classe e che ci ha reso partecipi di questa esperienza che trovo molto bella e molto inclusiva. E come dice la professoressa Mirra, spero che un giorno l'Orazio si possa aprire a tutti a questa offerta di poter avere, diciamo, una radio dentro la nostra scuola. Ah, noi le nostre frequenze le mettiamo a disposizione. Passiamo un altro pezzo per concludere quella che è la prima puntata dell'anno 2023 di Jolly Roger. Sono lenti, se li conti uno per volta, aspettando una svolta, baby, bisogna che non ci pensi, non guardare cosa fa, l'altra gente non lo sa, credi, pare che di questi tempi tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa succede alle loro menti, che si intrecciano a pensare, non riescono a volare, senti, c'è una canzone di tanti anni fa che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi. La tua bellezza è potente, ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente. Le cose accadono sempre sulla strada per Damasco, penso subito non è un incidente. Sai com'è? Dipende sul pacchetto delle gambe, qualcuno non ci vedo per niente. A te io affido i miei istinti, soprattutto perché so quanto ami gli animali. Senti quella canzone di tanti anni fa, che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi. La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi. La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi. La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi. Meno male che esisti, che se no ti avrei dovuto inventare da zero, come fanno gli artisti. E invece sei qua, sei vera, e che ti posso toccare, baciare, abbracciare, amarti e litigare. Oh, oh, oh, I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, per sempre e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi. La luce dei tuoi occhi. I love you baby, I love you baby, I love you baby. E ritorniamo in diretta. Intanto passo il mic a un amico che non c'è bisogno di presentazioni. Vabbè, non si presentiamo, però insomma, chi più chi meno, qua su Pirate Radio, mi avete sentito, è un piacere sta qua, quando posso ci vengo sempre volentieri. Ah, ma questa che vedo qua a sinistra, Pietro, è la prossima traccia. Sì. Ammazza, oh, come quando vengo qua. Manna la va. Mi vengono i brividi. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Vado con i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così. Non tocco i brividi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, pazzo. Dove di sono qui? Sono amici di diamanti, uno fra tanti. Non tocca i brividi, a volte non si esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di perle. E pagherai per un dare. Ritorniamo in diretta, ultimi minuti e saluti per noi. Come le migliori trasmissioni, il saluto speciale va alla nostra amica Alice che non è presente questo venerdì con noi. Un abbraccione e speriamo che possa esserci la settimana prossima. Detto questo, passo il mic agli altri per i saluti. Un saluto a tutti quanti. Ciao a tutti, un saluto grande ad Aliciotta, Elena e un bacione a Chicco. Forza Roma! Grazie. Mitico, questo è il più bello, il più bel saluto. Ciao! Prima puntata per noi, ci ascoltiamo e ci si riaggiorna settimana prossima. Questo è Jolly Roger. Sei così bambino ed io così maturo che non può funzionare. Ma c'ho bisogno d'amore ed è così bello. Mi fai tornare bimbo come quando mamma mi dava il bacino prima di andare a letto. E non è detto. Siamo in un tunnel al buio senza visore notturno. Non ho paura di nulla, ma Cupido mi aspetta per farmi uno scherzo di merda, lanciarmi una freccia sul petto. E sarai per sempre, e sarai per sempre la mia lady, ra ra ra ra. Perché andrei in punta di piedi, ra ra ra ra. Nella mia vita irregolare come le rockstar, girando la città, ma luci spente capirò che sei la mia lady, lady, lady, lady. Non ti piaceva un altro, ma che fine ha fatto? Ok che sono bello ma non così tanto. Cosa stai cercando su quel piedistallo? Ok che sono alto e che ti tratto bene. Ho una proposta sexy da farti, cresciamo insieme. Dammi il tuo cuore baby, farò di te una donna. Baciami sulla bocca con il rossetto rosa. Per la tua prima volta siamo la coppia perfetta. Cupido la lanci sta freccia che sono qui che ti aspetto. E sarai per sempre, e sarai per sempre la mia lady, ra ra ra ra. Perché entri in punta di piedi, ra ra ra ra. E la mia vita è irregolare come le rockstar, girando la città, ma luci spente capirò che sei la mia lady, lady, lady, lady. Sei così bambina e lo son pure io. Cupido ha lanciato sta freccia e sarai per sempre la mia lady, ra ra ra.